Componimento 101° del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Lasso, ben so che dolorose prede di noi fa quella ch'a nullo uom perdona e che rapidamente n'abbandona il mondo e picciol tempo ne tien fede. Veggio a molto languir poca mercede e già l'ultimo dì nel cor mi tuona. Per tutto questo amor non mi spregiona che l'usato tributo agli occhi chiede. So come i dì, come i momenti e l'ore ne portan gli anni e non ricevo inganno, ma forza assai maggior che d'arti maghe. La voglia e la ragion combattuto hanno 7 e 7 anni e vincerà il migliore, s'anime son quaggiù del ben presaghe. Fine del componimento.